movements of people. So like some people have been going away from the dangerous zones, like some people were trying to cross the border either to Turkey or to Bashur, to the Iraqi part of Kurdistan. So this has also happened, but we can say like it's not. Can you like stop for a second? I need to translate because you're telling us a lot of information. Wait a second. Wait a minute. Of course. Okay. Basilarmente quello che ci sta dicendo è che sia la popolazione sia le forze rivoluzionarie organizzate si stanno appunto muovendo su diversi fronti, a partire da quelle che sono le zone cittadine, dalle quali molti civili giustamente stanno fuggendo per non venire direttamente coinvolti, ma molti altri stanno invece partecipando alla lotta. Stanno convogliando tante persone anche da altre zone, anche dall'Iraq ad esempio, diceva, per portare non solo solidarietà ma anche appunto per partecipare direttamente alla lotta. Ci sono civili che si stanno organizzando in maniera non militare ma attraverso proteste, stanno riempiendo le strade, insomma, esattamente come ci stanno chiedendo di fare anche noi qua nelle nostre zone. E niente, ovviamente stiamo parlando di zone di guerra, quindi appunto come si diceva, molti stanno fuggendo verso l'Iraq in particolare. E niente, adesso c'è qualcuno ha delle domande in particolare che possiamo rivolgergli direttamente? Ok, adesso sarei arrivato a quello. Tanto gli chiedo magari un po' l'umore, com'è generale. Ok, so you hear me now? Okay, so, okay, yeah, sorry, it's the first time I use a smartphone for this, I'm not probably the right person to use this, but anyway, so what's the mood there? Like, do you think people are reacting to this attack, like, in a good way, they were, like, physically prepared to this, or there was some kind of desperation, like, try and describe what's the kind of mood you're facing right now? Yes. So what we can say, like the general mood is a spirit of resistance. Like that's what we see everywhere. Like the people are just, you know, like resisting in a self-defense mode that has been organized. Like we can say, like there's been a lot of preparations for this kind of events, and so people are just like activating the self-defense structures that were built up. So and also like they're using all the space that there is to put this resistance in place. So that, like, this is what the main spirit that we get is that like it's now it's time for resistance, and this is what's happening. And then while this is happening, there's a lot of uncertainty. Also, we don't know how all the situation will develop. Like a lot depends on the international reaction. So we're expecting a lot like from the international solidarity. Like we see that a lot of politicians, like a lot of countries and solidarity groups, like are expressing themselves against the attacks of from Erdogan. And we see also that for the minute, like it's been just a first attack. And we don't know how it will develop. It was mostly like the jihadist groups that have joined Turkey that were sent. Like it was not the proper Turkish army that was sent directly. So we know that Turkey has a lot more forces that it could put into action, and it didn't happen yet. So for this, like there's a lot of uncertainty. Then, like a third emotion we could say is like a bit of not surprise, but like we can say surprise, like from the fact that it happened so fast, with the fact that of course people, like the threats have been going on for months and everything, but really the US troops just started going away and leaving the place for Turkey, and like just 2-3 days later, like the war started. Like, so what came as a surprise is like how fast, like, really the supposed allies, like US, they just disappeared and opened the way for Turkey to attack. Okay, thank you. Just give me 1 second, I will try and translate, then I'll come back to you. Ok, praticamente la prima risposta che mi ha dato quando gli ho chiesto che tipo di umore avessero in quel momento, in quei luoghi, è stato che, insomma, come possiamo anche immaginarci, di base il mood con cui stanno affrontando tutto questo è il mood di persone che erano pronte a resistere. È qualcosa che magari alcuni di noi in maniera estremamente minore hanno affrontato nelle nostre vite, quindi forse in una maniera estremamente minore possiamo vagamente comprenderlo. Si tratta di persone che hanno deciso di combattere, che hanno scelto di dedicare a quello le proprie vite, quindi insomma si stanno trovando in un momento in cui lo stanno facendo e lo stanno affrontando con lo spirito di persone che appunto hanno deciso di resistere e di continuare a farlo, quindi con grande coraggio. Aspetta. Dopodiché il compagno ha proseguito parlando di come sono stati sorpresi da un lato, da come tutto questo stia accadendo nel giro veramente di pochi giorni. Non si aspettavano un abbandono totale da parte di quelle merde degli americani così in fretta, non si aspettavano un abbandono proprio dei luoghi, delle zone di guerra così veloce. Si aspettavano processi un attimo più lunghi, ma insomma, ciononostante, stanno proseguendo, stanno resistendo e provano a tenersi l'umore alto, perché non possono fare altrimenti. E per questo, insomma, ripongono una grande speranza in noi, quindi in tutti coloro che si trovano al di fuori dell'area del Rojava, ma che vogliono portare avanti la loro lotta portandogli solidarietà. Pongono molta fiducia nella solidarietà internazionale. Quindi, insomma, quella piccola goccia che abbiamo riversato oggi con il nostro presidio, con il nostro corteo, fa parte di un grande mare che dobbiamo continuare ad allargare, un mare di solidarietà nei confronti loro. Niente, questo era un mio commento personale. Niente, se volete procedo chiedendogli appunto cosa. Aspetta, c'è una domanda. Soprattutto chiedi se ha bisogno di qualcosa. Allora, Russia attacchi, ok. A livello materiale. Ok, so we have a couple questions for you. So the first one is, are they attacking you even during the night? And also the civilians part of the territory? And I know that unfortunately the answer is yes. But you can tell us more about it. Yeah. So, they attack at night. Well, for the minute, like, it just happened for one day. Of course, like, we cannot make a generalization, but we can see from the attacks in Afrin and from the attack of yesterday that yes, they would attack at night. I think yesterday it was until 3 in the morning that there have been some attacks. Not everywhere, but like in different places, until 3 in the morning, and then back again, like in the morning. What was the second question? If they attack civilians. Yes. Yes. Of course, it happened. Like in many places, like they attack villages. They've been attacking, of course, like in the cities, like, and you can say, for example, in Kamishlo, in the city of Kamishlo, it seems that they've just been throwing bombs, like, from the borders on the city of Kamishlo, like, randomly, like, without really aiming anywhere precisely, just sending on the city. Then, of course, like, some more strategical points are also aimed, but it's... Like there's been some civilian casualties, and it is villages and these kind of things that are aimed, especially like the ones that are around the bigger cities. Okay, so let me translate briefly. Purtroppo sì, purtroppo come ci si poteva bene immaginare ci sono attacchi che stanno andando avanti anche di notte, specialmente in un orario che va dall'inizio serata fino, diciamo, verso le 3 del mattino e riprendono al mattino presto. Questi attacchi stanno coinvolgendo purtroppo sì tante zone di civili, soprattutto le zone dei paesi attorno alle grandi città, attorno ai grandi nuclei cittadini. Quindi insomma purtroppo sappiamo che gli eserciti del capitale non hanno etica, quindi come dire, purtroppo è quello che ci dovevamo aspettare. E se volete adesso, dato che la questione della Russia è molto particolare, potremmo passare direttamente a chiedergli che cosa attivamente possiamo fare noi da qua, se siete d'accordo. Se possiamo aiutarli in qualche modo, perché, cioè, materiale, okay, so, oltre alla sua... I've translated it briefly. So now I wanted to ask you probably the most important question that I can give to you, which is basically what we can do. What we can do for help you, like, for real, directly. What could be helpful for you? So, what is important to see is that the war, like, has two fronts. Like, there's one physical front that is here. There's also a war that is going on the internet. We can see, like, this huge amounts of propaganda all over the internet in favor of Turkey. And, like, a first thing that you're already doing, of course, like, is organizing solidarity. Just through solidarity actions, discussing about the situation, and, like, communicating around it, like, this is, we can say, it's the first step of solidarity and of real action that you can do. Around this, like, there's many campaigns that you can join, like, there's a Rise Up for Rojava campaign, Women Defend Rojava, and like more campaign or like communication that you can do around Rojava and the situation of the Kurds mainly. And also then, like, we can say something that is really important is to organize the solidarity. And like the revolution of Rojava, it's a topic that touches everyone, like grassroots democracy, women's liberation, and ecological struggle. Like, these are concepts that are designed, like, to make life better for everyone. So what is being attacked here is something that is actually of interest for everyone. So around this, like, it's important that all kind of political groups or also community groups of neighborhoods of any sort of identity can join together in resistance committees. So this is something that we call for, is that for people in each city to gather all kinds of groups together in resistance committees that can organize solidarity, that is organizing actions, demonstrations, but also communication. And around this, like with this kind of resistance committees, you can contact politicians to ask them to make a statement around the situation here. You can contact media, you can do a lot of things. Like, maybe this is like the second step, like outside of like just spontaneous solidarity, is to organize it and try to reach more and more people and like more institutional people, so that a change can be done through political pressure. Okay. Thank you. Just let me translate a minute. Qualcuno intanto gli faccio un applauso per quello che ha appena detto, facciamogli sentire. Allora, molto, molto brevemente, proverò a tradurre tutto quello che ha detto. Di base, quello che ci chiedono di fare è quello che parzialmente già si sta cominciando a fare, quindi di organizzare la solidarietà, di fare azioni, di fare il più possibile azioni a livello individuale quanto a livello di gruppi politici organizzati. Chiedono di organizzare le comunità, le nostre comunità cittadine, chiedono di comunicare il più possibile con le persone ovunque ci troviamo che la lotta del Rojava è una lotta che li riguarda, come dicevo io stesso prima, perché insomma stanno realmente combattendo anche per noi, stanno realmente combattendo per portare avanti una lotta che ci riguarda. E quindi niente, chiedono di organizzare il più possibile la lotta, chiedono anche di fare pressione verso la politica organizzata, chiedono anche di spingere verso quel fronte, chiedono di chiedere ai politici di fare delle dichiarazioni, il che a titolo individuale penso che non sarà minimamente quello che faremo, spero semmai in un'auto-organizzazione popolare diretta, in un accrescersi dell'azione diretta, che è quella che loro stessi ci insegnano, oltretutto. E quindi niente, se noi più casino, come diceva Max, giustamente più casino facciamo noi, di conseguenza anche i piani alti per avere attenzione mediatica diranno anche loro qualche stronzata, e niente, quindi insomma quello che ci chiedono è di continuare la lotta anche in loro nome e di organizzarla il più possibile.